Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la rubrica in cui esaminiamo i contenuti dei settimanali, dei periodici italiani e non solo italiani. Vorrei cominciare questa mattina con una domanda un po' di cultura generale, come si dice. Secondo voi, quando è finito il feudalesimo in Europa? Beh, penso che la maggior parte di voi, così come me, risponderebbe diversi secoli fa. Invece no, il feudalesimo ufficialmente in Europa è finito nel dicembre del 2008, quindi pochi mesi fa. Il Baliato di Sark è stato l'ultimo stato europeo ad abolire il feudalesimo. Sark è un'isola della Manica, lo ha abolito pochi mesi fa, appunto nel dicembre 2008. È un'isola di 600 abitanti ed è una dipendenza della corona britannica. Tutto questo l'ho trovato su Storica nel numero mensile di agosto 2009. Vi spiego rapidamente, così come la racconta Storica, appunto questa vicenda di abolizione del feudalesimo. Quest'isola di 600 abitanti, diceva, una dipendenza della corona britannica, è stata finora amministrata da un balivo, ossia un signore feudale, simile a un vassallo. Dal 1974 il signore di Sark è stato John Michael Beaumont, che fino a un anno fa aveva giurisdizione su ogni cosa esistente nell'isola. Il territorio è diviso fra 40 tenutari, discendenti dei 40 uomini armati che originariamente costituivano la guarnigione posta a difesa di quest'isola Sark, appunto. Isola nel canale della Manica. L'amministrazione e la gestione delle risorse del luogo ha sempre seguito i canoni del feudalesimo, seguendo le stesse leggi emanate nel 1565 dalla regina inglese Elisabetta I fino al 2007. Quando il Parlamento europeo, dopo anni di contenzioso, ha giudicato questo sistema feudale di Sark contrario ai diritti umani, quindi il Parlamento europeo ne ha imposto lo scioglimento con la sua trasformazione in democrazia parlamentare. E arriviamo finalmente al dicembre 2008, cioè ai giorni nostri, in cui questo ultimo baluardo del Medioevo ha ceduto le armi. Nel dicembre 2008 si sono allora tenute le prime elezioni nelle quali il partito dell'ex balivo peraltro ha comunque raggiunto il 93% dei voti, segno che anche nel terzo millennio, commenta appunto Storica, la sua popolazione era evidentemente affezionata a un modo di vita medievale. Di conseguenza Beaumont continua a governare l'isola di fatto, però questa volta non più secondo il sistema feudale. Questa informazione l'ho trovata, come vi dicevo, su Storica nel numero di agosto 2009. Questo numero, tra l'altro, vi segnalo, contiene una rassegna molto bella, anche visivamente molto bella, degli anfiteatri dell'epoca di Roma imperiale in tutta Europa e nel Mediterraneo, e anche una inchiesta storica sulla figura di Elena di Troia. Lo scontro navale che cambiò la storia, per chi ama le grandi battaglie del passato, è dedicato questo mese alla battaglia di Lepanto. Cambiamo completamente argomento perché ho fatto caso che su molti periodici, su molti settimanali italiani ma anche stranieri, in questi giorni si parla parecchio di donne del genere femminile, di donne e famiglia, ruolo delle donne e così via. Allora cominciamo da qualcosa che non riguarda direttamente casa nostra ma che in qualche modo poi riguarda tutti noi. Da Newsweek di questa settimana vi segnalo un'inchiesta dedicata alle discriminazioni di genere in Cina. Questa inchiesta di Duncan Hewitt, che viene anche corredata da una serie di fotografie su questo numero di Newsweek, segnala che per le donne in Cina è difficile riuscire ad avanzare verso una parità effettiva, anche se qualche segnale insomma si muove. La descrizione iniziale è abbastanza sconfortante perché continua a esserci una sostanziale anzi all'arretratezza, una minore valutazione delle donne nel ruolo sociale, questo naturalmente generalizzando molto, perché quando parliamo di Cina ovviamente ci riferiamo quasi a un continente più che a un singolo stato, però dice appunto Hewitt su questa inchiesta su Newsweek che ci sono alcuni segnali di progresso. Adesso il 50% degli studenti universitari o del college, delle superiori diciamo, in Cina è costituito e composto da donne. Nel 1980 questa percentuale era del 23%, quindi in quasi 30 anni si è riusciti a raddoppiare, a pareggiare il calcolo tra uomini e donne. Però i ritardi sono molto ancora evidenti. Negli ultimi anni poi il governo ha cercato di aggredire più decisamente questo problema di genere e ha lanciato una campagna molto evidente, molto visibile contro la violenza domestica e ha introdotto anche nuove leggi contro le molestie e anche se avverte sempre Newsweek, le definizioni poi giuridiche rimangono un po' nel vago. Questa è la situazione appunto delle donne in Cina che stanno cercando di arrivare a una effettiva parità con gli uomini, ma di donne si parla, vi dicevo, un po' su diversi settimanali. Ad esempio su Famiglia Cristiana di questa settimana ci sono una serie di numeri sulle donne nella pubblica amministrazione, partendo anche dalla capacità di potere che le donne hanno, quanti posti di potere vengono realmente poi occupati da donne nella parte pubblica. Brave, bravissime, ma senza potere è il titolo di questo servizio affidato a Rosanna Bifi su Famiglia Cristiana di questa settimana. Brave abbastanza per le responsabilità da dirigente, non per quelle politiche. Così la pubblica amministrazione considera le donne che fanno carriera al loro interno. La fotografia di questo stato ancora di ritardo della posizione delle donne nella pubblica amministrazione è tratta, come avverte la stessa Rosanna Bifi, da un volume che è Donne, Talento e Tecnologia, scritto da Paola Stringa. Questo libro contiene un'indagine, spiega Rosanna Bifi, dell'Osservatorio Donne nella pubblica amministrazione e il dato generale dice che è pari al 19% la presenza di donne in consigli, giunte, apparati dirigenziali di prima e seconda fascia, ma con diverse distinzioni, tra il 3,91% di Andria e il 36% di Bologna c'è un baratro in tema di parità nella rappresentanza. Tra le regioni si apprende tra l'altro che la più virtuosa è la Sardegna, c'è il 32% di presenza femminile nei vertici politici e amministrativi. Ultima in questa classifica sulle quote rosa, come qualche volta si dice per sintetizzare la questione, l'ultima in questa classifica è la Basilicata. Venendo ai comuni capoluogo di provincia, risulta sempre basso il numero di consiglieri e assessori donne. Roma, per esempio, alto invece quello delle dirigenti. A Roma, ad esempio, il 35% di dirigenti nel comune di Roma sono donne. La percentuale sale al 41% per quelle di alto livello. Molto più bassi i numeri delle donne che occupano una carica in consiglio, 6%, e assessori, 15%. Questo il quadro complessivo, corredato anche da una tabella in cui si ricorda tra l'altro che sono donne tre sindaci di importanti città metropolitane, 3 su 15 città metropolitane, cioè sindaci di Genova, Milano e Napoli. In totale ci sono 43 assessori regionali donna su 258. E restiamo ancora un attimo sulla pubblica amministrazione, perché dal mondo si segnalano i ritardi nella trasparenza della pubblica amministrazione. Conosciamo tutti i tentativi del ministro Renato Brunetta di cercare di portare un po' più di trasparenza, specialmente sui siti della pubblica amministrazione. Il Mondo, in questo lavoro affidato a Gabriele Mastellarini, spiega che In realtà è dal dicembre 2006 che una finanziaria che fu presentata dall'allora premier Romano Prodi è stato introdotto l'obbligo di pubblicare su internet gli incarichi, le retribuzioni, le consulenze, i gettoni che vengono corrisposti da amministrazioni e aziende pubbliche. Tuttavia, andando a cliccare sul sito delle Poste, questo è il lavoro fatto dal Mondo, andando a cliccare sui siti, chiedo scusa, delle varie amministrazioni pubbliche, si trovano spesso comunicazioni non aggiornate o comunicazioni incomplete. Tutto questo sul Mondo di questa settimana, che segnala appunto i ritardi nella trasparenza. Come opaca la trasparenza, a quasi 3 anni dalla finanziaria 2006 che ne sanciva l'obbligo, la total disclosure, cioè il disvelamento totale, sembra ancora lontano. Questo per quanto riguarda il Mondo di questa settimana. E torniamo a parlare di donne con un argomento che in questi giorni sta animando parecchio il dibattito, la pillola RU486, la pillola abortiva, perché su Donna Moderna questa settimana c'è un sondaggio. Il sondaggio è stato fatto tra 200 donne e il risultato è, direi, senza equivoci. Sei pro contro la pillola abortiva è stato chiesto, pro il 68% contro il 32%. Il risultato del nostro sondaggio, segnala appunto il settimanale Donna Moderna, sondaggio tra 200 donne, è schiacciante. 7 su 10 sono favorevoli alla RU486. Adesso potrà essere somministrata anche in Italia, ma i pareri degli esperti, avverte il settimanale, continuano a essere discordi. Vengono poi ospitati un pro e un contro, affidati rispettivamente ad Alessandra Graziottin per la parte pro, ginecologa e sessuologa, e a Paola Binetti per la parte contro, Paola Binetti psichiatra e deputata del Partito Democratico. Quindi il risultato però di questo microsondaggio sembra dire che questo tipo di innovazione è fortemente voluto dalle lettrici. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, continuiamo a parlare di questioni che riguardano le donne. Da Panorama di questa settimana il punto su una vicenda direi annosa a questo punto: voglio il cognome di mamma. Come sapete, periodicamente si ripropone questo tema: dare ai figli il cognome del padre o poter dare ai figli anche il cognome della madre o il cognome della madre. Spiega Romana Liuzzo su Panorama di questa settimana che c'è un tentativo di sintesi in Parlamento per arrivare a mettere un punto fermo sulla vicenda. Leggiamo da Panorama: doppio cognome ai figli, quello del padre e della madre. Entrambi saranno obbligatori, se dovrà essere attribuito prima quello paterno o viceversa, è un dettaglio da stabilirsi in futuro. Al momento, in Commissione Giustizia della Camera, il dibattito si avvia verso un testo unico. La sintesi delle varie proposte arrivate finora sul tavolo di Giulia Bongiorno, incaricata dal Presidente del Consiglio di mettere ordine sulla questione. Spiega la stessa Bongiorno: in Italia non esiste una specifica disposizione di legge sull'argomento, prevale invece la consuetudine di assegnare ai figli il cognome del papà. In questi giorni sto tenendo varie audizioni con i partiti, le soluzioni tecniche sono diverse, con un comune denominatore, tutti sono d'accordo sull'introduzione del doppio cognome come nel resto d'Europa. Segnala sempre la Presidente della Commissione Giustizia, Buongiorno, in Italia ogni anno ci sono 1500 domande, per renderle operative però occorre seguire un iter burocratico molto lungo e complesso. Prosegue poi questo articolo di Romana Liuzzo spiegando che c'è una sorta di condivisione tra destra e sinistra, tra gli schieramenti, per arrivare ad aggiornare queste normative che ci porterebbero in qualche modo ad allinearci agli altri stati, perché in Francia da qualche anno è possibile aggiungere il cognome della madre, in Germania e in Austria il cognome di famiglia viene scelto di comune accordo tra i coniugi e vigono i principi fondamentali della Carta dei diritti dell'Unione Europea, tra i quali il divieto appunto di ogni discriminazione fondata sul sesso. Questa la prospettiva che si prepara in Parlamento. Naturalmente il Parlamento ora è chiuso per le ferie estive, se ne parlerà alla ripresa dopo la seconda metà di settembre. È interessante notare come nelle stesse pagine in cui Romana Liuzzo riferisce di questa possibile modifica all'utilizzo del cognome di famiglia anche per estenderlo anche a quello della madre, si ospiti anche un contributo di Paolo Guzzanti che dice è una norma in realtà inutile e furbastra. Guzzanti parla di un ritorno all'antico costume spagnolo di appiccicare il cognome della madre a quello del padre, sicché un qualsiasi povero contadino risulta ricchissimo di apellidos all'anagrafe, identificato come, e qui segue un lunghissimo elenco di cognomi. La notizia è appunto questa, secondo la lettura che ne dà Paolo Guzzanti. Ma allora, visto che parliamo di figli, facciamo un salto sulla stampa estera. L'Economist di questa settimana, un articolo molto interessante che si occupa di sfatare o di provare a sfatare una convinzione molto radicata, che è quella della espansione demografica inversamente correlata allo stato di benessere. Che cosa intendo dire? Di solito siamo portati a pensare che le famiglie con molti figli siano più comuni in stati dove il benessere è minore. Quando invece il benessere aumenta, in realtà viene a diminuire anche il numero dei figli, avendo poi dei problemi di crescita e anche dei problemi economici in un certo senso. Pensate alla possibilità di pagare le pensioni, all'andamento alle proiezioni delle polizze assicurative e così via. Bene, perché questa premessa? Perché sull'Economist questa settimana si riferisce di una ricerca molto interessante condotta all'Università della Pennsylvania. Vi leggo dall'Economist: uno dei paradossi della biologia umana è che il mondo ricco ha meno bambini che il mondo povero. Dice, è stato sperimentato che all'aumentare del benessere c'è una diminuzione nella tendenza demografica. Questo collasso riproduttivo, così lo definisce l'Economist, è particolarmente preoccupante perché accade di solito in combinata con l'aumento dell'aspettativa di vita, il che suggerisce che intorno alla metà di questo secolo non solo le popolazioni dei paesi più sviluppati non saranno in grado di proseguire, di perpetuarsi, ma anche che il numero delle persone in pensione, delle persone ritirate dal lavoro, sarà molto imponente e quindi metterà in difficoltà chi dovrà lavorare per pagare queste pensioni. Tuttavia, Mikko Myrskylä è il nome di questo scienziato, di questo studioso dell'Università della Pennsylvania, ha provato a fare una correlazione di dati un po' diversa dal solito e si è accorto che in realtà quando si raggiunge una certa soglia di benessere è vero che questo accade, ma proseguendo e quindi aumentando in qualche modo lo sviluppo e il benessere, si vede che la curva demografica comincia a risalire. Il risultato è molto importante e anche inatteso, riferisce appunto l'Economist. La sua importanza sta soprattutto nel cambio di criteri che i politici possono avere nel prendere le loro decisioni, ad esempio per quanto riguarda l'età pensionabile. Un grafico che illustra questo lavoro condotto appunto all'Università della Pennsylvania fa vedere che, arrivati a un minimo che sta intorno a un figlio o poco più di un figlio, la curva effettivamente sembra risalire verso il numero di due figli per famiglia. Il dottor Myrskylä ha preso in considerazione una serie di numeri che vanno dal 1975 fino al 2005, quindi un arco di tempo sufficientemente lungo per poter individuare una tendenza. Questa è una buona notizia, in effetti quella che potrebbe essere una buona notizia, che trovate sull'Economist di questa settimana. Restiamo in famiglia in qualche modo, riprendendo Panorama, perché Panorama effettua questo confronto che chiama divorzio all'europea. Anna Maria Angelone spiega che c'è una notevole diversità nelle modalità di divorziare tra i vari stati UE. La Corte di Giustizia Europea di recente ha stabilito che un coniuge può chiedere il divorzio nel suo paese natale anche se la coppia risiede abitualmente altrove e ha la doppia cittadinanza. Questo appunto è stato stabilito dalla Corte di Giustizia Europea su un caso di una coppia ungherese che vive in Francia. La sentenza viene presa come spunto da Anna Maria Angelone per segnalare quali sono i divorzi nella UE e come si regolano i vari stati. Allora, scopriamo ad esempio che ci sono oltre 1 milione di divorzi nell'Unione Europea in ogni anno, i matrimoni sono per contro 2.400.000 e il 20% dei divorzi riguarda coppie che hanno un partner straniero. In testa alla classifica dei divorzi si pone la Germania, 187.000 divorzi. Seguono il Regno Unito e la Francia con 150.000 e per il Regno Unito 139.000 per la Francia. In Italia l'Istat rileva che i divorzi sono cresciuti a 50.669. Cosa differenzia ulteriormente gli stati? I tempi, perché ci sono procedimenti lampo per separarsi nel Regno Unito e lumaca invece in Italia. Per una sentenza di primo grado occorrono in media 634 giorni in Italia, 447 in Francia, quindi siamo sempre sopra a un anno, 321 giorni in Germania, bastano invece 3 mesi in Gran Bretagna. E chiudiamo questa puntata di Magazine 24 con quello che potremmo definire un avviso ai naviganti. Avviso ai naviganti perché? Perché lo traiamo dall'Espresso. In mare il cellulare è salato, avvisa Alessandro Longo. Da quest'estate lo squillo ci inseguirà pure a bordo, ma con tariffe carissime, spesso non note a chi dovrà pagarle. Che cosa succede? Che questa è la prima estate in cui è molto probabile avere una sorpresa navigando su traghetti e navi da crociera in acque italiane. Il cellulare funziona anche al largo. Non sappiamo dirvi se è davvero una buona notizia, dove fino a pochi mesi fa non c'era campo. Molte compagnie marittime hanno installato antenne cellulari GSM e offrono quindi il servizio a bordo. La notizia è buona o cattiva, spiega però Alessandro Longo, a seconda del portafogli. Le tariffe infatti sono carissime, ben oltre i limiti imposti all'interno dei paesi comunitari. Si può arrivare a 4 euro al minuto per chiamare, a 3 euro al minuto per ricevere telefonate. Quindi è comodo, ma attenzione, può costare molto caro. E con questa segnalazione noi chiudiamo questa puntata di Magazine 24. Io ringrazio Giorgio Matè per l'assistenza in regia, Vittoria Mussini e Daniele Casagrande che mi hanno aiutato a preparare questo programma. A risentirci sabato prossimo.